Isee. Che cos'è e a cosa serve l'ISEE? Che cos'è e a che cosa serve l'ISEE? L'ISEE è un documento che dichiara la situazione economica della tua famiglia. Infatti ISEE significa indicatore della situazione economica equivalente. Per calcolare l'ISEE sono calcolati i redditi e il patrimonio di tutte le persone della tua famiglia. Il valore dell'ISEE è più basso se nella tua famiglia ci sono situazioni particolari di bisogno, se nella tua famiglia ci sono 3 o più figli o se nella tua famiglia ci sono persone disabili o non autosufficienti. Ti serve l'ISEE se chiedi prestazioni sociali che dipendono anche dalla situazione economica della famiglia. Per avere l'ISEE ti rivolgi a un centro di assistenza fiscale che molti chiamano CAF. O a un patronato. Trovi l'elenco al link qui sotto.